America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, abbiamo una settimana particolare davanti a noi. Il presidente Giorgio Napolitano sarà alla Casa Bianca venerdì. E così ho pensato di dedicare alcune delle prossime puntate ai rapporti dei candidati alle nostre elezioni con l'America. E comincio con il presidente del Consiglio Mario Monti, che esattamente un anno fa, diciamo qualche giorno più, giorno meno, il 9 febbraio scorso, ha incontrato Barack Obama. Benvenuto. I want to welcome Prime Minister Monti. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, Presidente, intanto grazie per essere qui con noi. Subito una domanda. È passato un anno da quell'incontro, ma ci può fare un bilancio di cosa è successo in questo anno? È successo che ciò che temevamo noi in Europa, che temeva il Presidente Obama, fortunatamente non è successo, cioè anche grazie al veloce risanamento che gli italiani hanno imposto a se stessi con una politica rigorosa, l'Eurozona non è esplosa e anzi si è avviata verso una soluzione della propria crisi. Ecco, lei ha lavorato molto da vicino poi col Presidente Obama, vi siete sentiti spesso per telefono, lei conosce a fondo l'America e gli americani. Beh, qualcuno dice che forse lei è troppo vicino all'America, troppo vicino anche magari alle banche americane. Cosa risponde? Si può essere troppo vicini all'America? Troppo vicini all'America? Forse si può essere troppo vicini all'America. Io sono d'altra parte così profondamente europeista che non corro questo rischio. Io ho una forte sensibilità e coscienza atlantica, come molti in Italia e in Europa abbiamo, e sono per un'America solidissimo partner in un'alleanza transatlantica, politica, economica, culturale, che costituisca un punto di forza della nostra cultura e civiltà in un'economia e in una politica globalizzate. Quanto alle banche, questo è un po' il tema che c'è in ogni paese, negli Stati Uniti, in Italia, in Europa, rispetto ai poteri economici in generale. L'economia ha bisogno di forti imprese, di forti banche, ma è essenziale che i pubblici poteri fissino le regole, le facciano molto incisivamente osservare, cosa che non è sempre avvenuta negli Stati Uniti o in Europa e in passato magari qualche volta neanche in Italia. Our interest in doing whatever we can do to help stabilize the situation in the Eurozone. Di nuovo il presidente Obama, dopo l'incontro che avete avuto a Washington, si impegna ad aiutare alla stabilizzazione dell'euro, però poi fa anche, diciamo, un'osservazione, e cioè ci vogliono anche politiche per la crescita. Resta un approccio diverso alla crisi. L'America ha puntato molto su politiche espansive, sia monetarie che fiscali, l'Europa sul rigore. Ecco, è passato un anno. Come risponderà a Obama quando vi risentirete fra qualche tempo? Che il dialogo con lui è stato ricco di conseguenze pratiche, il dialogo con lui in quell'occasione alla Casa Bianca, ma poi al G8 di Camp David, al G20 di Los Cabos in Messico, nelle varie occasioni in cui ci siamo incontrati o nelle molte conversazioni telefoniche. Io credo di essere stato un promotore in Europa della linea per la crescita cara agli Stati Uniti e anche a noi, e un promotore presso gli Stati Uniti della esigenza avvertita dall'Europa che anche gli Stati Uniti mettessero la loro finanza pubblica in ordine, e questo con, devo dire, fatica. Il presidente Obama lo sta facendo e l'ha fatto e lo sta facendo, e devo dire che ho trovato sempre il dialogo col Presidente e l'appoggio da lui dichiarato alle politiche italiane di risanamento all'interno e quindi contributo alla stabilizzazione dell'Eurozona e alla crescita europea dall'altro, l'ho sempre trovato un dialogo molto fruttuoso e vorrei dire culturalmente molto facile. Ecco, lei ha studiato in America, è venuto qua da giovane. Ci può raccontare il suo primo impatto con questo paese, arrivando per la prima volta in America? Immagino, credo, da studente. Sì, poi ci sono stato dopo la laurea per perfezionarmi, diciamo, un anno all'università di Yale, eravamo già al 67-68, un anno interessante e tragico per gli Stati Uniti. Ricordo gli assassini di Robert Kennedy, di Martin Luther King, la crisi per il Vietnam, un momento terribile e di svolta. Ma la prima volta c'ero stato da studente liceale nel 1960 e l'emozione per la visita negli Stati Uniti fu grandissima, perché insomma il paese lo si conosceva dai film, un po' già dalla televisione, ma mi ricordo molto forte l'impatto, tanto più che mio padre aveva deciso con una linea molto lungimirante di portare me e mia sorella nel 59 a vedere la Russia, sia pure da turisti estivi per un mese, e nel 60 gli Stati Uniti, proprio per farci vedere le due facce del mondo. È stato molto istruttivo. E c'è in effetti dietro poi questo grande paese, c'è un sistema politico che consente all'America di essere quello che regge da 200 anni, insomma, tutti i primi martedì di novembre, ogni 4 anni c'è sempre la stessa elezione, la Costituzione non è mai cambiata. Ecco, c'è un modello a cui noi forse dovremmo ispirarci guardando in avanti in materia di riforma elettorale? Ma è difficile parlare di legge elettorale su due modelli costituzionali così diversi. Direi che il modello al quale ispirarsi è quello di stabilità delle istituzioni con una grande flessibilità nelle politiche. In fondo, con la stessa Costituzione, per più di due secoli gli Stati Uniti sono stati in grado di fare politiche radicalmente diverse, come politica sociale, politica economica. E in Europa abbiamo due problemi, che sono: uno, quello di avvicinarci ad un ordinamento costituzionale per la nostra federazione, l'Unione Europea, che abbia lo stesso grado di forza e di stabilità della Costituzione americana, e a lenti passi ci stiamo arrivando. L'altro poi in subordine è quello effettivamente dei meccanismi elettorali, ma insomma non vorrei adesso essere costretto a paragonare ciò che fu stabilito dai padri fondatori degli Stati Uniti alla fine del XVIII secolo con quanto più recentemente in Italia è stato definito il Porcellum. Abbiamo una visita imminente, lo dicevo in apertura, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano vedrà Obama venerdì. Ecco, crede che questa visita a ridosso delle elezioni possa avere un impatto elettorale di qualche genere in Italia? No, penso proprio di no. È un omaggio del Presidente degli Stati Uniti al Presidente della Repubblica Italiana, che è riconosciuto in Europa e nel mondo come una figura di grande prestigio, e siamo, credo, molto al di sopra delle nostre piccole cose elettorali. Un paio di cose di cui non si parla in campagna elettorale che riguardano l'America. Per esempio, qui in America ci sono le lobby, sono registrate, trasparenti, che minimizzano, diciamo, il rischio di un rapporto incestuoso fra politica e affari. Ecco, in queste elezioni non si è parlato di lobby. Lei è favorevole a introdurre le lobby? Lo farebbe nel corso del suo prossimo mandato? Sicuramente sì, sarei favorevole, però non prenderei onestamente gli Stati Uniti come modello immacolato e al di sopra di ogni dubbio, perché abbiamo visto in certe fasi, per esempio durante la presidenza Bush, quando l'egemonia culturale del mondo dell'impresa e della banca era pressoché totale, erano loro che dettavano la politica economica e anche monetaria delle autorità americane, così come non mi piace quello che di recente la Corte Suprema americana ha stabilito, cioè la possibilità illimitata, se ricordo bene, per il business di dare finanziamenti ai candidati e ai partiti. Ecco, un'ultima domanda: investire in Italia, se ne è parlato, abbiamo fatto un inserto sul Sole, c'è stato un convegno a New York, siamo al 26esimo posto come destinazione di investimenti americani diretti in Italia. Ecco, gli americani non si fidano, sentono che ci sono troppe incertezze nel nostro paese, a partire da quelle fiscali, cioè viene un'ispezione improvvisa, viene imposta una multa, per contestarla bisogna andare in tribunale, però si deve aspettare poi magari qualche anno, e dunque preferiscono andare altrove. Lei condivide questa sensazione, questo atteggiamento degli americani, e crede che si può fare qualcosa per cambiare questa loro percezione? Sì, non sono sicuro che questo sia il fattore principale di dissuasione, credo che lo sia, ma ci siano anche altri fattori, come per esempio la frequente instabilità del quadro giuridico, non solo delle determinazioni fiscali, oppure l'eccesso di regolamentazione molto complessa, oppure anche il fatto che il mercato del lavoro è tuttora, malgrado progressi recenti, più imbrigliato e meno capace di determinare condizioni di produttività elevata rispetto ad altri paesi, o ancora una certa carenza di infrastrutture, o ancora, e questo l'abbiamo tolto di mezzo di recente con la legge anticorruzione approvata dal Parlamento recentemente su proposta del governo, appunto un quadro in cui non c'era una tutela contro la corruzione, è un quadro che preoccupa gli investitori stranieri. In tutte queste cose l'Italia ha fatto passi avanti, ma resta molto molto molto da fare. Presidente, la ringrazio. I nostri ascoltatori sanno che potranno continuare a seguirci su america24.com. Aspettiamo commenti nel nostro esperimento di social radio su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci, diteci cosa avete pensato di questa chiacchierata, e veniamo alla canzone del giorno. Anzi, Presidente, dunque noi questa canzone del giorno la scegliamo questa settimana in base a una richiesta, una dedica per San Valentino, e dunque chiederei a lei di scegliere questa canzone del giorno ispirandosi a San Valentino, magari dedicandola a sua moglie, direi. Beh, allora dovrebbe essere, data la circostanza, Only You dei Platters. For it's true. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!